Corso basico di Kabbalah, parte 1, file audio 32. Per me quello che ti dico deve essere basato sulle fonti assolute. E per me le fonti sono lo Zohar e Ari. E io non riesco a trovarlo lì, nelle religioni e anche nei scritti dei moderni cabalisti. Altri possono fingere di avere un sistema. Io dico solo quello che ho letto in Ari. E Ari si sta dicendo che non esiste una linea divisoria tra il Havaya. Non c'è divisione tra il Yud Hei Vav Hei. Quando non c'è divisione, allora c'è unità, integrità, come ho dato nell'esempio delle due mani. Questo è stato anche il caso con Adam e Hawa. Adamo e Hawa non sentivano una separazione. Quindi non avevano bisogno per vestirsi. Erano nudi. Non c'era la necessità per vestirsi. Avevano bisogno di vestiti quando hanno sperimentato la separazione. E anche noi viviamo questa esperienza di separazione, anche se non ne parliamo. Ma quando vieni alla Kabbalah, ne prendi coscienza. Altri rimangono lì incoscienti e anche questo va bene. Ancora sono ingenui e giocano la commedia. E allora non spettate avere alcun giudizio. Per loro non esiste alcuna divisione. Ci sono persone che parlano liberamente, hanno un significato diretto e non hanno la sensazione della linea di divisione. Uno può ancora essere ingenuo, può ancora interpretare la commedia allo stesso modo di un politico. Tu puoi mai sapere cosa o come è un politico. Ora lui non è con se stesso. Un politico è una persona intelligente, reagisce in situazioni speciali. Prende le sue possibilità, guarda e agisce. Lui lo fa per se stesso. Lui guarda attentamente come le relazioni possono essere usate, perché ama il potere. Quindi vuole avere il controllo. Ma devi sapere questo. I grandi politici non sanno chi sono, perché sono come marionette sulla corda, burattini nella mano del superiore. Lui fa uso delle forze superiori. Questo è perché lui sembra così forte. Il significato delle nostre correzioni è di venire alla giusta consapevolezza, nel senso che non c'è divisione tra Havaya, perché solo nella nostra consapevolezza c'è separazione. Dal momento in cui Adam peccò, la separazione fu nella nostra consapevolezza. Ho detto dal momento che peccò Adam e non Hava, non Eva. Nella Torah vedrai che è scritto: a volte Adam era la causa del peccato e talvolta Chava era la causa del peccato. Impareremo questo. Ma entrambi sono la causa del peccato. In alcuni aspetti era lei. E in alcuni aspetti era lui. Non incolpare solo le donne per questo. La linea di divisione esiste solo nella nostra consapevolezza. Yud e Hei sono sempre in integrità. In amore. E Vav e un'altra Hei devono venire nella stessa situazione. Loro devono imparare da Yud Hei in un certo modo, copiarli in modo che anche loro possano venire all'integrità. E alla fine? Cosa ci sarà alla fine? Il nome Hawaii. Dappertutto. Cosa accadrà quando avranno 10 sfirot in cui sono perfetti? Certo, sono già integri, completi. Solo nella nostra consapevolezza vediamo la mancanza. C'è qualcosa di sbagliato tra il Vav e il He. Apparentemente sono separati, ma supponiamo che siano uno che loro hanno Zivug. Cosa succederà allora? Perché abbiamo bisogno di queste 4 lettere, Havaya? Se il Vav e Hei scompaiono all'interno dello Yud e del primo Hei. Quando c'è interezza, solo Yud e Hei sono rimasti. Naturalmente ogni cosa ha queste 4 lettere, Yud, Hei, Vav, Hei, ma la vera esistenza è lo Yud e la prima Hei. Integrità senza mancanza. La mancanza è solo sotto la linea nel Vav e nella seconda He. Qui nel Vav ed He c'è mancanza nella nostra consapevolezza, ma visto da sopra non c'è mancanza. Quello che vediamo è questo. Yud è 10 e Hei è 10. Hei guarda attentamente a questo Hei. È diviso in Dalet e Vav. Dalet è 4 e Vav è 6 insieme 10. Ma il Vav, il creatore ha fatto Vav solo con 6 sfirot. Solo la seconda Hei ha una sfira. Solo l'esperienza è rimasta dopo il peccato di Adam. Qual era il significato del creatore? Per lui lo Yud e Hei sono 10, ma l'uomo era così testardo. Non era nelle sue intenzioni che l'uomo avrebbe sofferto per molti anni, che ci sarebbe stata la guerra, eccetera. Alla fine l'uomo arriva alla luce perché cresce a causa di tutte le esperienze del fuoco e dell'acqua. Ma questa non era la sua intenzione. Lui diede a Adam la possibilità di fare il Vav et Hei completi. Ma cosa fece Adam? E cosa fece Chava? Solo a causa dei loro peccati e a causa dei peccati delle generazioni successive, la linea divisoria venne all'esistenza. Loro solo a causa di questa mancanza è venuto in esistenza, in esperienza. Una sfera fu lasciata per Malchut e 6 per Zeirampi. Noi le anime sono ancora sotto la linea di divisione, sotto il Vav e il He. E noi come anime dobbiamo sforzarci, dobbiamo vivere una buona vita, dobbiamo vivere conforme alle sue prescrizioni. Non solo con le nostre mani e piedi, intendo letteralmente, ma spiritualmente. Puoi andare in una chiesa, in una sinagoga, e fare ogni genere di cose, ma quando fai cose proibite, come scritto nella Torah, una chiesa, una sinagoga può aiutarti? Solo la miseria ti aiuta. A causa di tutta la miseria tu imparerai. Ora stai imparando Kabbalah e la Torah, e poiché di questo impari cosa è proibito e cosa non è. È dovuto a questo puoi essere un passo avanti alla sofferenza. non a causa di tutta la sofferenza e miseria, ma a causa di amore. Almeno noi proviamo a portarci nell'amore, nonostante non funziona tutto il tempo. Un essere umano è un essere molto ostinato. Ma tu stai provando, e a causa di questo tu senti sempre più l'interezza dello Yud e la prima Hey. E più sperimenti, più vuoi sforzarti. Sempre più correzioni salgono al Malchut, e dal Malchut salgono alla seconda Hey. Quindi la connessione può essere fatta con il Vav, e insieme vanno al Yud e alla prima Hey. E quando vanno insieme allo Yud e alla prima Hey, prima Hey, prendono con loro la tua richiesta, e dal Yud e la prima Hey vanno a Ein Sof. Da Ein Sof arriva la luce, la risposta alla tua preghiera, il riempimento della tua mancanza, l'eterna risposta della tua domanda. Le domande sono preghiere. Cos'è una preghiera? La tua domanda è la tua preghiera. Hai una domanda per il superiore. La preghiera è una domanda. Di a te stesso: non comprendo. Io non ho la comprensione. Perché c'è così tanta miseria? Io non capisco perché le persone si odiano così tanto l'uno con l'altro. Ma qualunque cosa accada riguarda la mia reazione è dentro di me. Mi manca la comprensione, quindi per favore dammi intuito, dammi forza. Hai domande per il tuo superiore? Esso è dentro, è per te. E il superiore dentro di te ti dà la risposta. C'è una difficoltà? L'unica cosa che devi ricordare è essere onesti e sinceri. È necessaria la vera intenzione. Ma qual è la vera intenzione? Cos'è vero o non vero? Posso chiedere per me stesso? Certamente puoi avere qualcosa per te stesso. Tu lavori sodo, lavori per vivere, avere cibo, eccetera. Devi lavorare per rimanere vivo, ma non vivere perché devi lavorare. Cerca di essere sincero nelle tue richieste. La tua preghiera è la tua richiesta. La tua preghiera è una domanda. E domanda significa che voglio qualcosa. Vuoi avere la risposta perché la risposta ti dà luce, intuito. E questo è tutto ciò di cui hai bisogno. Io penso che è facile sostituire le parole preghiera con le parole domanda. La parola preghiera è abusata così tante volte. Nessuno capisce il vero significato più profondo della parola preghiera. Il modo in cui le persone usavano e usano una preghiera era e è in un modo infantile. È di più, dammi questo, dammi quello, dammi, dammi, dammi. E lui sapeva che doveva chiedere anche per altre persone, perché l'aveva imparato. Ma la vera preghiera? Prova a chiedere le giuste domande dall'interno perché hai il desiderio di venire in conformità con le risposte. Crescere. Non chiedere come un figlio vincente, ma in modo sincero e adulto. Aria ha dato l'insegnamento della Kabbalah. Il Creatore ha dato a lui l'insegnamento della Kabbalah. E per questo Ari è chiamato divino Ari, Ari Akadosh. Lui diede le sue istruzioni al divino Ari, solo a questa persona. C'era bisogno di altro? No, non c'è persona, nemmeno nel mondo ebraico, che c'erano due persone che avevano ricevuto le istruzioni su come usare l'universo, solo Ari. Quando sai questo, è necessario che tu segui altre persone che ovviamente ci raccontano ogni tipo di belle storie, sapendo che queste storie provengono dalle loro anime terrene. Ma perché dobbiamo seguire Ari? Non c'era nessun altro? Certo, c'è l'autore di Zohar, ma sono la stessa anima. L'autore di Zohar e Ari sono la stessa anima. Parlo molto e la ragione di questo è perché c'è molta carenza. Abbiamo così tante varietà. Passo dopo passo riceverai maggiori informazioni riguardo le sfirot e altre cose. Allora posso andare più in profondità. Il nostro inizio è in Sof, l'eternità. E in Sof è chiamato eternità. E ti ho già detto che da Einsof è emanato un raggio fino al punto del nostro mondo. Ma questo raggio non ha toccato il nostro mondo. Il mondo è un concetto spirituale. I mondi sono punti di forza, solo punti di forza. Parliamo solo dei punti di forza dentro le cabale. Ricorda questo. Porta questo nel tuo cuore. Parliamo solo dei punti di forza. Un raggio viene dall'alto al basso. È possibile confrontare questo con un filo a piombo. Perché si usa un filo a piombo? Per vedere se qualcosa è dritto. E questo è un ottimo confronto con il raggio di luce. È lo stesso con la forza. La gravitazione qui sulla Terra. C'è un detto. Come sopra, così sotto. O così padre e figlio. Esattamente lo stesso perché non c'è nient'altro, solo il più alto e il più basso. Più andrai avanti nella Kabbalah, più lo sperimenterai. C'è un padre sopra di noi, più sottile, più profondo, più forte, come un filo a piombo. Il creatore della luce, lui ha abbassato la luce dall'alto al basso, al nostro mondo. Naturalmente, prima della creazione c'era luce ovunque. Ma dopo la creazione la luce era dritta verso il basso. Guarda attentamente il disegno. Qui sotto va molto lento. Come diciamo, passo dopo passo. Prima devi venire attraverso un posto chiamato Mahzon. Il significato delle parole Mahzon è barriera. C'è una barriera tra le esperienze del nostro mondo e il mondo spirituale con la luce. La difficoltà dell'esperienza del mondo spirituale si trova in questa barriera. Puoi confrontarlo con il lancio di una nave spaziale. Uno ha bisogno di molte forze per lanciare una nave spaziale. Questo è un ottimo paragone con quello spirituale, il passaggio dal nostro mondo materiale al mondo spirituale. È un passo molto importante. Ognuno di noi fa questo passo separatamente, non come un collettivo. Non c'è alcuna menzione nei libri di Ari e Zohar, che sarebbe una cosa collettiva, solo personale. Ogni persona deve superare questa barriera nelle sue azioni personali, nel nelle sue esperienze personali. L'attraversamento della barriera è un processo individuale. Ogni persona può percorrere il sentiero verso l'alto, verso lo spirituale, ma deve attraversare la barriera in modo individuale. Dall'alto ognuno di noi, ogni persona è vista come una persona unica e individuale. Questo è uno dei motivi per cui il gruppo non deve essere più grande. Nessun luogo più grande, perché mi piace avere contatti con ognuno di voi. Non un contatto come abbiamo nel mondo materiale, ma da dentro. Per connettermi con te e aiutarti dall'interno. Dall'interno. Quello che sperimento in Ari è ciò che ricevo da Ari. Mi piace trasmetterlo a te, a ciascuno di voi. E allo stesso tempo ognuno di voi deve attraversare la barriera con l'uso della sua forza. Devi attraversare la barriera da te stesso. Solo allora puoi andare più in alto. Là dove i cabalisti erano più grandi di Ari, che sapevano di più, avevano imparato di più, ma Ari era l'unica persona. Dall'alto era degno di passare le istruzioni. Perché? Ari scrive dell'autore dello Zohar, Rabbino Rashbi Shimon Bar Yochai, e Rashbi faceva parte di una generazione molto produttiva. In quella generazione c'erano grandi uomini saggi che conoscevano molto di Kabbalah. In un certo senso sapevano di più sull'istruzione, ma era stata data solo ad Ari per trasmetterla. Lascia che provi a spiegartelo perché. Così non devi ascoltare quello che il rabbino ti sta dicendo. Con qualsiasi rabbino nel tuo luogo dove vivi. Ti mostro in modo semplice e facile in che modo funziona. Come ho detto prima, la luce scende come un filo a piombo in un modo infallibile. La luce scende. L'anima di Ari era l'unica anima di sempre, in quanto struttura veniva dritta come un filo a piombo, in un modo infallibile, da sopra a sotto e da sotto a sopra. C'erano grandi cabalisti, ma le loro anime non avevano il livello dell'anima di Ari. È stato dato dall'alto l'anima di Ari, che era esattamente nel mezzo. E quando uno è esattamente nel mezzo, noi chiamiamo questo la vera realtà. quando c'è anche la minima differenza, sia a destra che a sinistra, non è più la vera realtà. Puoi capirlo questo? L'aria era, è esattamente nel mezzo. Nel mezzo generale. C'è la linea destra e c'è la linea sinistra e c'è la linea nel mezzo. Ciò che esiste ha queste correzioni, destra, sinistra e in mezzo. Quel che è sul lato sinistro della vera realtà è il dominio dell'intelletto. L'intelletto reprime il cuore, così l'intelletto diventa più forte. Quel che è sul lato destro della vera realtà è il dominio del sentimento-intuizione. Il cuore domina. E l'intelletto se n'è andato. L'intelletto è sotto il cuore. E la linea nel mezzo è l'unità assoluta, la totalità. Pace tra l'intelletto e il cuore. Entrambi. Il sentimento e l'intelletto ci sono dati dall'alto, con l'intenzione che entrambi sono insieme, uno, shalom. Cosa significa questo? Non lottare con l'uno o con l'altro. Impara a concedere in modo da poter rimanere in equilibrio. Ci sono anime che vengono dal lato sinistro e ci sono anime dal lato destro. Questo è dato dall'alto, o in altre parole, è nella natura dell'essere. Essere sul lato sinistro della linea mediana significa che l'intelletto domina il cuore, domina il sentimento. Ovviamente l'intelletto deve essere attivo, ma devi sapere cosa intendo con sentimento. Non intendo la sensazione di qualcuno che pensa di sentire o di sognare, ma della sensazione strutturale dentro l'essere. Nessuna fantasia, ma il sentimento spirituale. Con l'intelletto intendo l'intelletto strutturale e non solo l'intelletto terreno. Quando domina l'intelletto, governa il sentimento. Io parlo riguardo la linea sinistra, riguardo anime che hanno le loro radici nella linea sinistra, a sinistra della vera realtà. Quando qualcuno ha più sentimenti, come possiamo vedere nelle religioni, e soprattutto nelle religioni orientali, essi sono dal lato destro. In un certo senso il lato sinistro distrugge il sentimento. Come già sai, non parlo di cabalisti o riguardo le religioni. Parlo solo riguardo una persona. Tutto è all'interno di una persona. Hai momenti che domina l'intelletto e ci sono momenti in cui il sentimento è più importante. Ogni volta che vai dalla sinistra alla destra e quando ti accorgi di andare troppo a sinistra, devi correggerti. Con la correzione intendo che devi fare da dentro un movimento interiore. Dì al tuo intelletto: so che hai ragione, sai esattamente come devo agire, ma guardo ancora alle risposte eterne. Quando lavori con le risposte eterne, fai già il movimento a destra. È lo stesso quando sono troppo lontano dalla destra. Allora anche tu devi fare una correzione. Quando il sentimento domina, di a te stesso. Di a te stesso: questo è bello, splendido, ma devo limitarmi? Per tutto il tempo vado dalla sinistra alla destra e dalla destra alla sinistra. A incrocio la linea di mezzo, fino a che io posso stare nella linea di mezzo. Passo dopo passo, porta te stesso nel centro. I grandi cabalisti erano persone. La maggior parte di loro erano un po' di sinistra. L'intelletto li stava governando. In un certo modo, una persona che sta in profondità nella sinistra abusa del suo sentimento. Non pensare che sia sbagliato, anche questo era necessario. Ma solo Ari era nel mezzo assoluto. E quando impari dall'Ari, solo Ari, impari come aggiustare la destra e la linea sinistra. Come riconosci qualcuno che sta nella linea sinistra? Che è una persona che calcola tutto il tempo. Perché? È convinto che l'intero mondo deve essere lasciato dalla Cabala. Ma non tutti appartengono al lato sinistro. Io sono un po' del lato destro. E Ari disse: ogni persona che è dal lato sinistro ha bisogno della forza che lo porterà un po' di più al lato destro, destro dalla linea di mezzo. Perché? Il lato destro significa Chesed. Più puoi arrenderti, aprirti, e più Chesed può venire. Certamente puoi imparare dalla sinistra, dal tuo intelletto. Che cosa puoi imparare dalla sinistra? Riguarda i gruppi, come formare i gruppi. Sono maestri in questo perché tutti lavorano in squadra, in gruppi. Ma Ari, lui è diretto al creatore. Yehuda Ashlag era un po' della sinistra. Solo un po', ma immobile. Questo è il motivo per cui Ashlag può essere così asciutto. Ashlag è anche molto bello, ma a volte è un po' secco. Prova a vederlo in questo modo. Ari è nel mezzo. E Yehuda Ashlag è un po' più a sinistra. Ma solo Ari era esattamente nel mezzo, come un filo a piombo. Non alla destra, o alla sinistra, ma esattamente nel mezzo. Colui che è più nella sinistra domina il suo intelletto. Sperimenta la vita come una cosa sola. Non prova amore. Me, per esempio, io non conosco questa sensazione. Tutto dipende dalla tua anima, la struttura della tua anima. Quando la tua anima è più alla sinistra, hai bisogno di molta forza. Devi lavorare duro per arrivare al centro. Non il tuo intelletto deve essere il capo, ma tu. E anche chi è più alla destra deve venire anche al centro, al suo centro. Quando qualcuno ti dice seguimi, devi sapere chi seguirai. Solo Ariel nel mezzo. E quando segui Ari ti aiuterà anche a venire nel centro. Buona fortuna. È un disegno di questa lezione. Lezione 23. L'introduzione è andata. Su quel che volevo darti. All'inizio pensavo che Tess fosse una buona idea dopo che ti ho dato alcuni capitoli dello Zohar, ma entrambi non sono quelli che io cercavo, quello che io volevo dare. Parte del testo di purificazione interiore. Cosa significa nel lavoro spirituale quando un'abitudine diventa la seconda natura? Quando l'uomo si abitua a qualcosa, diventerà un'abitudine per lui. Ogni abitudine può diventare la seconda natura dell'uomo. Non c'è nulla nel quale non si possa percepire un nucleo, anche se lui non ha assolutamente alcuna percezione. Lui la può ottenere per mezzo di un'abitudine. È bello sapere che c'è una differenza nella percezione tra il creatore e le creature. Le creature hanno la qualità dell'antenna e dello stimolo. Raggiunto è raggiungibile. Raggiungibile. Quindi c'è qualcuno che si sente e c'è una determinata essenza. Unicamente l'essenza è il creatore. L'essenza è il creatore e ciò che comprendiamo è quel che la creatura può fare. Questo è il pezzo del testo. Cosa è rilevante per noi? Quando impariamo lo spirituale, come noi progrediamo e investiamo nello spirituale, esso diventa più rilevante a noi e formerà un nuovo livello sul nostro me egoista. Il me egoista esisterà sempre, ma su in cima. Su in cima a quello viene uno strato spirituale, una parte del nostro stesso interno diventa occupata attraverso lo spirituale. E questo diventerà lentamente la nostra seconda natura. Dobbiamo sempre prenderci cura. Ogni giorno essere attenti che imparare la Torah o il pilota automatico, no, imparare la Torah o la Kabbalah, scusi, non diventerà qualcosa che abbiamo imparato a fare. Imparato significa che lo facciamo con il pilota automatico, automaticamente. Ogni giorno, ogni momento in cui impariamo questo, deve essere nuovo a noi. Devi avere l'atteggiamento che ogni volta che inizi a studiare, o anche quando pensi allo spirituale, come se stessi facendo domande per un pubblico al re dei re. Cerchi e desideri e vuoi ottenere l'udienza dal re dei re. Questo è molto difficile, ma di fatto questo è reale. Quando continuerai ad avere questo atteggiamento, sarai molto attento. Fai attenzione a non rovinare le tue energie. I tuoi punti di forza è di non peccare. Che vedi sempre che ti sta di fronte. Perché in un certo modo noi non lo vediamo, ma lui ci vede comunque. Tutto è trasparente e la luce passa attraverso di noi, ci penetra completamente. Si dice che lui mi vede ovunque. La luce passa dappertutto. Anche quando resisti, devi sapere che lui vede ogni cosa di ciò che fai. L'occhio superiore, che chiamiamo in termini terreni la luce, l'eternità perfetta, ti vede sempre. Qualunque cosa tu faccia. E naturalmente niente è lurido. Non devi vergognarti di certi comportamenti. Quelle sono cose terrene di cui abbiamo bisogno. Non devi vergognarti per questo. Siamo fatti in quel modo, abbiamo bisogno, dobbiamo andare in bagno. Siamo fatti per farlo in quel modo. Ma tu hai sempre bisogno di essere prudente. Ovunque tu sei, hai bisogno di sapere che sei di fronte al re. Di fronte alla vita eterna e devi esserne consapevole. Di volta in volta controllati regolarmente. Perché tu cadi di nuovo, ad esempio, quando vedi un determinato evento. E sei spazzato via da quell'evento. Solo quando ti vedi di fronte al re, puoi davvero vedere te stesso. Quindi puoi vedere la tua reazione, solo allora vedi la tua reazione. Solo allora puoi vedere la tua reazione perché sei di fronte al re, l'uno della vita eterna. Con quelle cinque domande che noi avevamo: cosa, quando, perché, dove e chi. Che tu puoi provare in ogni situazione. Che vuoi vedere il re, la vita eterna, qualcosa che vive sempre, allora puoi sperimentare le risposte eterne. Mentre facciamo questo, diventa sempre più la nostra seconda natura. E quello ci aiuta a trattare con la nostra prima natura. Ma prima che la natura egoista ci tira giù e ci dice: cosa stai facendo? Guarda, domani mattina ti alzi, la sveglia suona e devi andare al lavoro. Questa è la realtà. È ragionevole. E cosa stai facendo ora? Di cosa ti stai occupando? Questa è una realtà ragionevole. Ti alzi, ti lavi, mangi e vai al lavoro. È difficile. Puoi davvero sentirlo? Devi sapere che questa è la vera realtà. Devi fare bene anche questo. Anche il tuo lavoro ti è stato dato a te, anche questo è necessario. Fa pure parte della realtà. Le leggi della natura sono state date anche dal re. Assolutamente. Non pensare che ci sia discrepanza, che lo spirituale sia qualcosa di diverso. Le leggi della natura sono anche eterne. Vediamo che finché esiste il mondo in questo modo, Il mondo esiste in questa forma. Queste leggi saranno immutabili. Ad esempio, sei malato e vai da un dottore. Devi farlo anche perché in tal modo realizzi anche la volontà del tuo creatore. Non dire quando lavoro sono distratto dallo spirituale. Anche il lavoro è spirituale. Ogni cosa deve essere spirituale con te e per te. Quando sei al lavoro o quando sei distratto attraverso il tuo lavoro, o da altri, o da ogni tipo di barriere, tutti i tipi di disturbi vengono tutti dall'alto. Vengono dal re della vita. Questo è il modo in cui dovresti vederlo e non dire quando sono solo nella mia stanza, bello e comodo, da solo, allora posso studiare. No, al lavoro svolgi la tua abitudine verso l'eterno. Progredirai più velocemente di qualcuno che si nasconde nel ritiro da monaco. Precisamente nel mezzo della vita è dove dobbiamo stare. Perché? Perché è così che siamo stati creati. Perché le leggi della natura sono pure parte delle leggi dell'universo. Verremo ad apprendere che questo corrisponde al nome Elohim e anche Adonai. Questi sono due nomi importanti. Adonai significa anche Malchut, e questo è quando sperimentiamo che abbiamo a che fare con la materia pesante. Quando sperimentiamo la manifestazione di questa forza divina, questa è chiamata Adonai o Elohim. Questa è Din, severità. Quando sperimentiamo la severità, il tuo compito è, in ogni cosa che fai, di portarla più in alto ad Havaya Yud-Hei-Vav-Hei. E questo è il nome di misericordia. Allora sperimenti il Re come misericordia. Ma il lavoro potrebbe sembrare diverso nelle tue cose quotidiane. Quindi sperimenti lui nella sua capacità di Elohim, severità o Adonai. Questi sono anche i nomi del Creatore ed è anche la realtà del Creatore. Questa è la vera realtà anche se in una forma più bassa e il tuo compito è, se sei al tuo lavoro devi sperimentarlo, allora sperimenti quello. Mondi inferiori, quando parlano di cose inferiori, anche questa è realtà, ma nel tuo cuore ti muovi sempre verso l'alto. Ti spingi verso l'alto fino al nome di quattro lettere, Yud-Hei-Vav-Hei. poi puoi sperimentare. Altri, per esempio, sono nella stessa situazione, ma sperimentano la severità. Noi lo chiamiamo quello Din. Ma in quel momento sperimenti Yud Hei Vav Hei, l'unità, e poi tu non sentirai la tua natura terrena che ti tira giù. Perché eri come essi, ma hai fatto uno sforzo attraverso il quale ti sei tirato su. Tutto è. La Kabbalah non è altro che sperimentare, sperimenti quelle forze, esperienze e nient'altro. Vivendo nell'ora e vivendo nell'eternità. Questo ci dà la Kabbalah. Praticare e cadere, praticare di nuovo e cadere di nuovo. E quando cadi, dove cadi? Nella prima natura. La seconda natura la devi imparare gradualmente. Come ci si sente quando sono impegnato con la Kabbalah o con l'Eterno? Dov'è quello posto o quegli strati? Dove sono in me? Saprai sempre dove sono e poi ti connetti con quei luoghi che la luce ha intaccato e con quello ti connetti nei momenti in cui la prima natura ti spinge giù ad agire normalmente, essere ordinario. È carino, ma per te normale deve essere l'unità. Lottare per l'unità con il re. Questo deve essere normale per te. Parte del testo per la purificazione interiore. Lui percepisce un gusto amaro. Nella realtà si sente male o ne soffre molto. Questo è il suo essere esterno, Kelim in Kabbalah, Kelim ricevente. E lui viene anche chiamato peccatore. Ma il suo essere interiore è sempre nella gioia e nella giustificazione del Creatore. Perché lui percepisce solo la realtà e reagisce solo attraverso due criteri di questa realtà, verità e menzogna. E lui è chiamato solo. E quindi l'intero significato della correzione esiste nel lasciare le scintille di luce del suo essere esterno ascendere nel suo essere interiore. Allora il suo essere esteriore non potrà più peccare o usare le sante scintille per soddisfare i suoi desideri indecenti. Quindi il gusto amaro della realtà sparirà completamente da lui. Quel che lui riceve dal Creatore non lo percepirà più come il contrario o il male. Il nome Havaya corrisponde con le Sfirot. Noi possiamo parlare riguardo lo spirituale sulla base dei nomi del Creatore. Nomi si intende forze specifiche, una specifica interpretazione dei punti di forza attraverso le lettere. Attraverso combinazioni di lettere, ogni lettera ha un valore numerico. Ci sono anche altri momenti, come ad esempio una sfera superiore verso una sfera inferiore. Quindi la sfera più alta dà alla sfera inferiore attraverso il suo Ahuraim, dietro, attraverso la sua schiena, proprio come una madre dà al suo bambino. Non da se stessa, non da chi è lei, ma da un atteggiamento come un bambino, nel modo in cui il bambino è capace di comprendere, di regire, di gerire. Allo stesso modo la sfera superiore si comporta verso la sfera inferiore. E questo è chiamato Ahuraim. Dietro. Ho tutti i tipi di forme. Valore numerico che chiamiamo gematria. Gematria in ebraico. Per cui viene data l'informazione di quali punti di forza sono presenti in quella sfera. O quale luce viene trasferita da una sfera ad un'altra sfera? O quale preghiera? Noi chiamiamo questo man. O quale mancanza innalza innalza una sfera inferiore ad un livello più alto. Qualitativo e quantitativo. E questo approccio è da Ari. E ho visto che da nessuna parte nel mondo viene utilizzato. Impariamo la Kabbalah così com'è. I nomi del Creatore e delle Sfirot e li combiniamo l'uno con l'altro. Questa è l'intera arte. E quando impariamo quello, noi saremo sempre in grado di calcolare, sarà già nella nostra testa e nel cuore che quale forza Binah dà a Zeiran Pin? Impareremo come tutto si adatta insieme come forza qualitativa. E quale nome è connesso? Abbiamo già detto che i nomi sono. Ogni sfera esprime un nome diverso del Creatore. E quando la luce viene da, per esempio, la seconda sfera all'ottava sfera, come puoi sapere quale luce arriva all'ottava sfera? Assolutamente, con assoluta certezza, siamo in grado di calcolare quale luce arriverà lì. Quindi è misurabile. E non solo quel che ci dirà cosa dà a noi quel numero. Allora sappiamo con quale qualità, quale forza viene su quella sfera.